Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Dov'è la zuppa? Toglietevi di mezzo! Scansati tu, sguattero! Tu stai cucinando? Come osi metterti a cucinare nella mia cucina? Come hai potuto anche solo pensare di mettere in atto una tale monumentale idiozia? Dovrei farti spellare e poi sguardare! Lo farò! Credo che la legge sia dalla mia parte! Squartalo e passalo sotto la pressa per anatre! È certo che il grande chef non può tollerare che un topo cucini meglio di lui. Il topo, per eccellenza l'essere più schifoso che esista, almeno nei luoghi comuni, nelle nostre paure, nel terrore delle donne che il topo si possa loro infilare sotto le gonne e fare chissà che, nello schifo degli uomini che lo cercano, lo uccidono, lo stramazzano. Noi siamo spesso occupati di topi. Ci siamo occupati per delle crociate animaliste che hanno salvato i topolini dagli stabulari degli istituti di ricerca. Poi non so cosa se ne siano fatte di questi topolini che hanno salvato, se li sono tenuti in casa, topolini infetti, topolini usati come cavie per salvare la vita agli esseri umani. Oggi parleremo dei topi da un punto di vista diverso. Lo sapete che siamo invasi dai topi? Sì, ve ne rendete conto. Chi abita nelle grandi città li vede scorrazzare a tu per tu con i gabbiani che ogni tanto li prendono. È un'immagine molto frequente ormai nella confusione zoomorfa che avviene nelle città italiane, vedere, non so, Piazza Colonna davanti a San Pietro, il centro della cristianità, un gabbiano in picchiata che si butta su una pantegana, la prende, la solleva, la squarta, la butta per terra. Ci gioca come una volta si diceva, gioca il gatto col topo. Oggi il gabbiano gioca con il topo. A Roma ci sono 15 milioni di topi, dicono, poi non è che nessuno li abbia contati uno a uno. A Milano ce ne sono 13 milioni, in 9 anni una coppia può generare 2 milioni di figli. Le città stanno stanziando fior di dobloni per liberarci dai topi, ma sembra che sia difficile, impossibile. Come ti liberi dai topi? I topi nelle leggende, nelle saghe, nelle fantasy sono gli esseri che invadono le città. I topi portano il vampiro Nosferatu da un continente all'altro. I topi seguono il pifferaio magico che li fa negare tutti in acqua, me l'ho visti, come nuotano bene dentro il Tevere, con quel naso di fuori, sembrano dei motoscafi. Poi mi dicono, sono nutri, non sono topi, ma per me sono dei rattoni giganti. Beh, qual è il vostro rapporto con i topi? Avete paura dei topi? Li vedete? Vi sentite circondati? Per ogni topo che voi scorgete ce ne stanno 70 in agguato, nascosti dietro da qualche parte, pronti a scorrervi davanti e a farvi terrorizzare. 800240024, oggi uomini e topi, anche donne però. Ci stanno le fogne qui sotto, tutti da là escono. È pienissimo, non pieno, pienissimo, non se ne può più, veramente tanti. Ratti, ratti, così enormi. Nel XX secolo non deve esistere, il terzo mondo non c'hanno queste cose qua. C'erano l'altra volta i turisti, sono usciti 12-13 topi, loro passavano, si sono messi paura e hanno detto... Come fate a lavorare a queste condizioni? E se te danno un mozzico dopo? In molti uffici pubblici i topi sono ritornati a infestare perché si sono abbassate le misure di controllo. È la spia di un paese che si sta impoverendo, che se non inverte questa tendenza rischia di tornare ad avere gli stessi problemi, lo stesso tipo di problemi che avevamo 50, 100, 150 anni fa. Non diamo sempre la colpa a noi esseri umani. È anche colpa loro, sono animali molto lussuriosi. Leggo in un inserto del Corriere della Sera, ma anche Ballarò ci ha fatto una puntata, pensate, una delle trasmissioni più ancorate all'attualità politica del paese, e deve parlare anche dei topi. Ebbene, c'è scritto che le tope hanno una predisposizione ai rapporti multipli. Di qualcosa avevamo già sospettato, devo dire la verità, ma quando sono in calore le tope, leggo sul Corriere della Sera, accontentano tutti i maschi che le circondano. Durante l'estro in genere in 6 ore si consumano un tale tasso di tempo, 300-500 rapporti. Si fanno 500 toponi le tope in 6 ore, voi immaginate, di fronte a questo ritmo che speranza abbiamo noi esseri umani. Carla Delfino, buongiorno. Buongiorno. Per parlare di topi ho portato una esperta di topi, un'amica che da qualche tempo sta studiando con attenzione il fenomeno dell'invasione dei topi. È presidente di una società, Imperial Europe, che è la prima azienda italiana che ha sviluppato un biorepellente per topi. Carla Delfino parte dall'idea che i topi non vadano uccisi, non vadano ammazzati. È brutto vedere un topo che cerca di staccarsi dall'adesivo, dalla colla che lo ha imprigionato. Arriva a staccarsi le gambe, a staccarsi i pezzi pur di scappare via. È un topo monco che si allontana. Lontana, sanguinoso la colla, è brutto. E quindi Carla si è inventata il biorepellente, che ha sparso anche per questo studio, e quindi in questo momento sento forte la tentazione di scappare. Cosa c'è di vero, Carla, di fronte al fatto che i topi stiano invadendo l'umanità? È sempre avvenuto? C'è qualcosa di nuovo? No, c'è decisamente un fenomeno estremamente preoccupante, come lo dicono tutti gli studiosi. Perché? Proprio perché noi da circa 50 anni usiamo degli strumenti chimici molto forti, i famosi anticoagulanti, che li hanno sterminati. Così come è successo con il DDT, ricordate? Cioè la deratizzazione classica. Infatti. E come li ammazzavano? Dal dopoguerra, da quando sono venuti fuori questi prodotti anticoagulanti, quindi che li hanno sterminati, i topi naturalmente, perché ce l'hanno proprio nel DNA, hanno cercato di risolvere questo problema. Come lo hanno risolto? In due modi. Quando un'esca viene messa all'interno di un ambiente dove stanno i topi, perché vivono in colonie, il capo colonia invia un topo sentinella, kamikaze, sacrificabile. Questo topo assaggia l'esca. Se il topo dopo X giorni è ancora vivo, la colonia va a mangiare quell'esca. Se il topo muore, succedono due cose. Prima, la colonia non mangerà più quell'esca, quindi quell'esca diventa inutile, diventa un veleno inutile che inquina, cioè, tutto l'ambiente. Cioè fanno un upgrade genetico che da quel punto quella cosa lì non la toccano più, ecco, è un antivirus. E secondo, tutti i topi femmina, per questo noi chiamiamo le donne di malaffare con topi. Quei... ecco. Ma anche, non so, anche le amiche simpatiche. No, insomma, diciamo tutta, anche una, tu, topa, sei, dai. Tutta una serie di nomignoli che vengono attribuiti alle donne che si prostituiscono derivano proprio da per questo. Per la lussuria della femmina per del topo. Lussure. Queste tope, diciamo questi topi femmina, hanno sì, la perché capacità non si capisce perché si dice della maiala. Maiala fa quello che fa normalmente ogni animale da cortile. Invece no, la topa è una cosa bestiale perché... Infatti. In 6 ore 300-500 ma rapporti. Poi ha una cosa in più che ce l'ha solo il topo: la ritenzione degli zigoti. Non ha più bisogno del maschio, trattiene gli spermatozoi e si autofeconda quando serve. E quando serve? Quando viene ucciso un topo, la colonia attua un meccanismo di riproduzione eccezionale, e quindi abbiamo ucciso un topo vecchio e nel giro di 3 settimane mettono al mondo 30, 40, 50 topi. Ecco perché abbiamo tutti questi topi. Quindi non c'è dubbio su quale specie sopravviverà l'umanità, i topi sicuramente. Non c'è dubbio, figuratevi che hanno fatto dei test su degli atolli, vi ricordate negli anni 50 i francesi, dopo 20 anni o 15 anni sono andati a vedere, non c'era nulla, le rocce erano cristallizzate, c'erano i topi che pescavano i pesci. Cioè dove hanno fatto gli esperimenti atomici? Li tiravano... Dove hanno fatto? Negli atolli, adesso non mi ricordo. Quindi se ci fosse una guerra termonucleare batteriologica, i topi rimarrebbero. Sentiamo Cristiano. Cristiano, buongiorno. 800 24 00 24. Parlate dei topi anche se vi fa ribrezzo, perché è importante. Cristiano. Sì, io non ho paura dei topi, non mi danno fastidio. Qui da noi in campagna ce n'erano, però con la crisi ce ne sono meno, perché si buttano via molte meno cose e quindi loro hanno molto meno da mangiare. Il topo di campagna va dal topo di città, come nella favola. Sì, il topo di campagna è un topo più felice, secondo me. Però ce ne sono meno. Cioè stanno meno. Quindi a lei ha registrato che in campagna ci sono meno topi. Poi sentiamo cosa dirà l'esperta Carla Delfino. Giuseppe. Salve. Lei è un killer di topi. Sono un proprio di quelli là che ammassano i topi. Con che li stermina lei? Sono un ammassa topi. Con le esche deratizzanti che hanno un principio attivo che gli rompe i vasi sanguigni. È quello che diceva prima la nostra ospite. Esatto, quello lì. E quanti ce n'avrà sulla coscienza lei? Quanti ne avrà ammazzati più o meno? Un bel po'. Qualche milione? Non lo so quanti, però un bel po'. Lei diceva prima il fatto dei comuni che spendono dobloni, e mica è vero, guardi, perché io faccio qualche comune e gli dico, guardi, bisogna fare almeno 7-8 deratizzazioni all'anno per tenere sotto controllo la popolazione, come diceva la signora prima. Infatti questi aumentano. Se ci stai appresso, va bene, allora la tieni sotto controllo questa, ma se non ci stai appresso, per esempio, quando in comune facciamo una derattizzazione, che ne so, a ottobre, no? E poi ne fanno un'altra a marzo-aprile, e sono aumentate a dismisura. Mentre invece ogni due mesi, un mese e mezzo, si tengono bene sotto controllo. Allora, Carla Delfino, quello che dicono le due persone, allora, innanzitutto che il topo di campagna fugga, vada in città. E seconda cosa, il derattizzatore classico, lo sterminator dei topi, dice sì, se continui a dargli sotto a ritmo forsennato li tieni sotto controllo, ma se fai passare molto tempo cosa fanno? Si assuefanno, come dicevi. Allora, finora non c'era nessun'altra alternativa che ammazzarli, però ci siamo accorti che ammazzandoli non risolviamo, anche perché, lo saprà anche il signore, sono uscite fuori delle ricerche spaventose in Inghilterra, ci sono i topi che sono resistenti a tutto, gli devi sparare. Ma di cosa si nutrono? E diventano resistenti come Mitridatere del Ponto, che per non farsi avvelenare ogni giorno mangiava un grammo in più di veleno, sono diventati resistenti, e la cosa incredibile è che riescono a trasmettere la resistenza ai figli. Quindi se noi uomini impariamo a scalare, il nostro figlio non è uno scalatore. Se i topi imparano la resistenza, i loro figli sono resistenti. Ecco, ma essenzialmente loro vivono, diciamo, di quello che sono i nostri rifiuti. I nostri rifiuti. Meno noi trattiamo i rifiuti, più ci saranno topi. Allora, la soluzione è non ucciderli. Sembra assurdo, ma noi dobbiamo rimanere nell'equilibrio della natura. Se tu non li uccidi e li fai rientrare nel numero ciclico, lo diceva, quando li ammazzi, periodicamente, dopo tre mesi, i topi ne trovi moltissimi. Perché? Per il discorso che facevamo prima. Se tu rientri nel ciclo... Le femmine impregnate fanno tanti figli per supplire... Se tu rientri nel ciclo naturale, i topi sono alimento di tantissimi animali, i cani, i serpenti, i gatti, loro rientrano nel loro ciclo naturale, tu non li uccidi ma li tieni lontani dai luoghi. Ma con i repellenti li allontani, vanno da un'altra parte però. Benissimo, è lo stesso concetto della porta blindata. Tu hai la porta blindata senza avere mai avuto un ladro in casa. Perché? Perché vuoi prevenire. Ma se tutti per assurdo hanno repellente, alla fine dove vanno? In due anni, in tre anni, la popolazione delle colonie dei topi murine si riducono in una maniera sensibile. Perché rimangono nelle loro zone, rimangono nelle fogne, rimangono negli ambienti dove sono la loro competenza. 800 24 0024, velocemente diamo l'informazione del traffico, perché non stiamo nella pelle, vedo che stanno chiamando tante persone per sapere quale sarà il destino dei topi, ma ancora di più quale sarà il nostro destino se continuiamo a non fare i conti in maniera corretta con i nostri amici roditori. Melog, cronache meridiane. Bene, bene, ne abbiamo già presi 8, tutti dello stesso tipo, belli grassi. 9. Dio, ma uno, sono topi di fogna. Sì, ma scusi, ragioniere, ma io avevo avuto il mezzo sospetto che... Sei sempre il solito maiale, mandato a pescare al largo, zozzoni. Ma sì, prendete la mia barca, no? Facciamo una cosa, butti via questi topi. Ma che topi e topi, per favore, ragioniere Fantozzi, non ci si metta anche lei. Esiste il pesce cane, il pesce gatto e il pesce ratto. Possono piacere o non piacere, e su questo io non discuto. Ad ogni modo, a me... Questo è Filini che vuol convincere Fantozzi, che ha pescato una pantegana, che sia il pesce topo, nella sfigaggine totale di tutti gli impiegati. Stiamo parlando questa mattina del problema topi, che sembra un problema molto difficile da risolvere. Abbiamo ascoltatori a Iosa che sembrano in maniera molto importante attratte l'idea che i topi possano sopravviverci. Luisa, buongiorno. No, dottor Nicoletti. Lei è affranta dai topi. Io adoro i topi, li trovo deliziosi. Una topofila? Sì, però non li voglio in casa. E ho scoperto una cosa, che è vero che le esche disturbano, sono pericolose per gli altri animali. Se ci rimane attaccato un gattino, poi piangete, vi dispiace. No? Il biacco, la biscia d'acqua, il biscione, che mi facevano un po' impressione, mi disturbavano, e invece posso dire che adesso spero che vengano a trovarmi, perché si infilano nel muro e negli intercapedine, in tutti i buchi, E lei poi ha la fortuna di abitare in campagna con specchi d'acqua lacustri nei pressi, perché le bisce d'acqua qui a Roma dove le vedo non è che possono stare dentro la fontana di Trevi. Luisa ha parlato, Carla. Buongiorno Gianluca. Allora, Luisa rimpiange gatti e bisce d'acqua, lei Carla. Allora, io volevo testimoniare una grande ammirazione per una cosa che mi è successo con un topo. Rigovernavo una stanzina dove era ammassato da tempo cose varie, audiocassette, scarponi da sci, e muovendo gli scarponi mi sono accorta che una toppa, sicuramente madre, aveva tolto, non so come, perché le confezioni erano tutte chiuse, aveva tolto tutti i nastri dalle audiocassette e li aveva infilati in fondo allo scarpone per fare un nido di una... un nido meraviglioso. Aveva svolto tutte le cassette, tirato fuori il nastro. Sì, ma non so come, perché le erano comunque chiuse. Aveva messo la coda dentro come si faceva con la matita negli anni Ottanta e l'ha tirato fuori, chiaro. Se ci penso, e un altro topino di abito in campagna, un altro topino proprio di campagna che abbiamo chiamato Pino, veniva a mangiare dalla ciotola del cane. E... vabbè, amore per i topi. Pino il topino, che era addestrato a mangiare, Maria, mangiare dalla ciotola del cane. Maria, buongiorno a tutti quanti, grandioso, sono veramente onorata. Allora, io mi sono trasferita e sto qua a Genova. Sì. Premetto che ho anche vissuto un'infanzia di campagna, quindi vada al punto, però vada al punto. Ecco, vada al punto, proviamoci. Quando sono venuta ad arrivare qua, io già a vivere qui, sto nei vicoli di Genova, non so se qualcuno ha presente. Sì, certo. E qui quando attraversi la sera ti trovi, non i topi, sembrano gatti, e tu ti devi fermare, loro ti fissano, devono passare loro, non ti puoi avvicinare, cioè proprio ti danno una sfida. Quando sono venuta a vivere in un certo posto, no, quindi proprio in casa, ho scoperto che c'erano dei topolini piccoli, quindi piccoli appena nati, insomma già che andavano in giro, però piccini, che venivano a trovarmi in camera e si infilavano dentro gli zoccoletti del muro. Sì, quei batuffolini grigi carini che uno vede, che tutta coda, lo so, però diventano dei toponi. No, carini, sì, no, carini, eccetera, però il mio terrore era: se non li posso combattere, fate gli amici. Sì. Allora avevo imparato a organizzargli un catering quando rientravano, perché avevamo gli orari, a volte entravamo anche insieme. Bello, quelle tipiche cose da ergastolano nell'Isola del Diavolo, che alleva il topo e comincia a parlarci. Allora, Carla Delfino, è vero che i topi arrivano a mezzo metro e pesano quasi un chilo, quelli in città? Sì, ci sono dei topi, addirittura quelli che vivono in Africa, che pesano a pesare fino a 7-10 kg. Gli scienziati però dicono che prima o poi anche le nostre generazioni nostrane diventeranno così. Sì, è facilissimo, perché quelli resistenti diventano più forti e gli animali più forti sono sempre quelli più grandi. Però io volevo commentare l'ultima telefonata della signora di Genova. Guardate che non è una cosa bella tenere gli animali, i topi in casa. Allevare i topi. I topi portano fino a 35 malattie, di cui alcune mortali, come la famosa peste. La peste portata. Ma come anche la salmonella, come il tifo. Quindi e il topo porta queste malattie anche con il solo passaggio, perché dissemina peli, escrementi, liquidi corporei, che sono pericolosissimi. Quindi la leptospirosi, non si scherza con i topi. Soprattutto città come Roma, ci sono dei fiumi attraversati. Non si deve scherzare con i topi. Se si vogliono tenere i topi in casa, ci sono dei topi che vengono venduti nei negozi di animali per fare topolini bianchi, per fare questo servizio, allora poi sì. Ma i topi selvatici li sconsiglio, perché portatori di malattie gravissime. Mario, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Sì, allora, volevo dire che nel mio caso quello che dice la dottoressa non è stato vero. Avevo cioè? Uno stabilimento infestato dalle pantegane, li ho uccisi tutti, non ne ho mai più vista una. Vabbè, era limitato il problema, si vede evidente. Come l'ha uccisi? Ah, con le solite esche. Vabbè, fa piacere. Dopo sentiamo cosa dice Carla Delfino. Nicola. Allora, io... buongiorno a tutti. Io ho avuto un problema di questo genere, nel senso che sono stato morso ad una mano l'anno scorso da un ratto di, penso, intorno ai 2 etti. La cosa... Ma com'è accaduto? Lei andava a dargli una carezza? No, lui l'ha morto. Il problema è che... Allora, io abito in Cascina, quindi in campagna, e avendo cavalli e asini vicino alle granaglie, purtroppo ci sono questi topi. L'unica maniera che ho trovato per riuscire a tenerli una popolazione limitata è utilizzare le trappole, quindi le gabbiette, li intrappolo e dopo purtroppo li uccido. Li fa, gli spara, come li ammazza? No, li annego. Ah. Li annego. Vabbè, è una cosa lunga, straziante. D'altronde, cioè, sparargli non ho armi, per cui non gli sparo. Beh, come gli zombie, non so se segue la serie Walking Dead, bisogna infilargli un chiodo in fronte. Se fosse così facile. Comunque lei è stato morso dal topo, quindi ha avuto, esatto, delle mutazioni. No, però ho dovuto comunque seguire tutta una profilassi di punture e antibiotici che per un buon mesetto mi ha alquanto devastato, perché sono stato. Quindi, comunque, come dice Carla Delfino, attenzione, con i topi non ci si scherza. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Che ha visto lei? Sono in linea. Sì. Sono Paolo di Roma e praticamente è un aneddoto, è scherzoso, carino. Perché praticamente stavo dentro l'allevamento di galline di mia cugina e praticamente vedendo due topi che salivano, uno saliva sopra, cioè ha visto tipo grondaie che scendono giù le uova. Spenga la radio. Uno si metteva sotto e praticamente andando avanti dal terzo piano andavano sotto. Uno sotto, poi riscendeva quell'altro, andava per sotto. Rubare le uova facendo il gioco della carriola, Carla, sì, Delfino. Questo è studiato proprio scientificamente. Sì, sì, sì, sì. Beh, ma come si organizzano per rubare un uovo? Perché allora, le zampine non ce la fa. No, certo non possono. Buttano l'uovo in due topi. Uno dall'alto butta l'uovo, sotto l'altro fa una specie di carriolina. Di carriolina e lo stringe a pancia sopra. Lo stringe con le zampette e l'altro prende la coda e lo trascina via. Proprio la carriola tipica. La carriola tipica, ma i topi sono leggendari nelle loro risoluzioni. Ma sapete perché? Perché noi condividiamo il 99% del patrimonio genetico con i topi. Ma questo lo dico anche per quelli che dicono è inutile fare sperimentazione animale sui topi che non assomiglia. No, è l'animale che più ci assomiglia. Si fa per questo la sperimentazione sui topi. Non è casuale. Topi, cioè, perché tutte le medicine che funzionano con i topi automaticamente funzionano. Cioè l'animale con che più ci somiglia. Al topo, al 99%, rassomigliamo più a loro che magari a un uomo di un'altra razza. Davvero? Di un'altra, certamente. Andiamo avanti, Paola da Verona. Ah, buongiorno, salve. Sì. Io ho lavorato, mi scusi, ho lavorato tempo fa per un'agenzia di derattizzazione. Sì. E adesso per fortuna da anni, perché non è un bel lavoro. Beh, c'è chiaro, non è che fa piacere. E devo dire che sono, per me è un business, è tutto un business. Cioè, spieghi meglio. E perché non li eliminano i topi, sennò perderebbero il lavoro. Magari diminuiscono per un mese e poi tornano più di prima. Diciamo che fa coppia con la telefonata di prima, che dice se me lo fate fare più spesso, quindi non mi fate lavorare di più, è chiaro che ricrescono. Carla Delfino, la ragione è quella che diceva prima lei, è inutile avvelenarli perché tanto poi si assuefanno al veleno e diventano ancora di più. Bisogna guardare a quelle che sono i trend del futuro e al trend delle nazioni più, diciamo, progredite. Chi è all'avanguardia nella derattizzazione? L'America ha messo fuori legge tutti questi prodotti, questi che adesso in Europa verranno non fuori. Non ci sono norme europee ancora su questo? Sì, come no, c'è la nuova normativa biocidi che li metterà tutti fuori legge. Quindi chiuderanno i derattizzatori? La soluzione qual è? È quella di andare conformemente alle disposizioni della natura, quindi cercare di trovare delle soluzioni. Se voi fate caso, ci sono delle piante in natura che tengono lontani tipo? I topi, per esempio la menta. Se voi prendete un batuffolo immerso nella menta e lo mettete lì, il topo se ne va. Quindi se uno non vuole un topo in bocca mentre dorme, si prende una mentina come da addormentare. Infatti. Andremo nel futuro della derattizzazione attraverso la formula morbida e allegra e innocua dal punto di vista della possibilità di vederli sbudellati, ammazzati, agonizzanti, che è il repellente per topi. Grazie Carla Delfino, grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti. A domani.